Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Nei momenti particolari, quando bisognava festeggiare un evento, lui si cimentava sempre nel preparare il couscous di carne, quello tipico tunisino. Ed era sempre una gioia. È un piatto che mette allegria. Ciao, sono Rita. Abito a Portichetto, ho 41 anni, un figlio di 13 che abita con me, lavoro a Milano, una società di rating e ho un sacco di passioni. Ciao Matteo, sono Rita, eccomi qui pronta a rispondere al tuo annuncio di scrivere qualcosa che riguardi il cibo. Il mio racconto parte da un momento drammatico della mia vita, quando persi il mio compagno per una malattia che ci ha lasciato impotenti, ma con un bambino di 6 mesi da crescere da sola. Buongiorno a tutti, sono le 16:10, questa è Radio24, il programma è Voi Siete Qui. Io sono Matteo Caccia, la storia di oggi che raccontiamo è la storia di Rita, come avete sentito. Qualche tempo fa abbiamo fatto una convocazione che riguardasse delle storie legate al cibo, sempre storie, sempre quello che facciamo tutti i giorni, però legate all'alimentazione, al cibo, a un piatto particolare o a una ricetta particolare. E la storia che ci ha mandato Rita parla del couscous di carne, e lo sentirete. In realtà però parla di una cosa particolare, che è un ingrediente segreto. La cosa particolare però è che l'ingrediente segreto non è sempre commestibile, cioè non è il cardamomo, per dire una roba, o il pepe rosa dell'Himalaya, no, quello lì è il sale rosa dell'Himalaya. Guardo Pietro la Corte, che ne sa in fatto di couscous, essendo palermitano. C'è una parte della Sicilia orientale che no, è occidentale, benissimo, ci ho anche pensato, ho fatto occidentale. San Vito Lo Capo, c'è anche il festival del couscous a San Vito Lo Capo. Insomma, non è sempre commestibile, dicevo. Nel suo caso, infatti, il segreto, l'ingrediente segreto è guardare un film particolare di cui adesso ci racconterà. 349-238-6666. Voi quando cucinate, oltre a mettere tutti quegli ingredienti lì, fate qualcosa di particolare. Ascoltate una musica, chiacchierate con qualcuno, guardate un punto e lo fissate per un'ora mentre girate il mestolo. 349-238-6666. Il profilo Twitter è Voi Siete Qui, R24, il mio è semplicemente Matteo Caccia, oppure sul nostro profilo Facebook, che è Voi Siete Qui Radio24, Ivan, ad esempio, mi scrive: durante la preparazione del mio piatto migliore, ma anche di qualsiasi altro piatto, io racconto passo per passo la ricetta a mio padre, come se fosse lì. Mi sembra di cucinare con lui, che mi ha insegnato ad amare la cucina. E ancora Alessandro: io amo la cucina rurale, ruspante, così ho uso un vecchio mestolo in legno, una vecchia terrina in terracotta smaltata e un mortaio per pestare sale, pepe e altre erbette. Per Capodanno feci un arrosto con pomodoro e verdure, ottimo a detta dei commensali. Il piacere nel farlo era stato immaginarmi in una piccola e scura cucina in un'epoca seicentesca. Alessandro c'ha questo trip, cioè lui il fatto di essere nel 2013 non lo convince molto, quindi lui si immagina in una cucina piccola e scura in un'epoca seicentesca, chissà come erano scure e piccole le cucine nel 600, con a disposizione pochi ingredienti ma buoni e ben conditi. 349-238-6666. Vale veramente tutto, vale che lo fate a testa in giù, fate una capriola mentre fate il vostro piatto preferito, oppure che so io, vi legate un fazzoletto a un braccio perché sentite passare meno sangue in quel braccio e riuscite a girare meglio il mestolo. La Corte, mi sto immaginando delle cose, non è che mi puoi guardare con quella faccia come se fossi un imbecille. Vi ricordo che noi continuiamo a raccogliere storie non solo legate al cibo, ma legate a un pezzo della vostra vita che avete voglia di condividere. E l'indirizzo è sempre quello lì. E voi siete qui, @radio24.it. È sufficiente una pagina e mezzo. L'importante è che ci sia una storia che in qualche modo vi racconta, che appartenga al vostro passato, al vostro presente, che sia molto lontana negli anni o che sia accaduta l'altro ieri. Vale tutto, vale il lavoro, vale l'amore, vale l'amicizia, vale anche una storia che parli di cucina. Questa storia è di Rita e parla del couscous. Karim aveva deciso di scappare dalla Tunisia per diventare un attore in Italia. Nonostante vivesse in una famiglia ricca e benestante, questo suo sogno di venire in Italia ci ha fatto conoscere. Era un bravissimo cuoco e spesso cucinava per me. Pigra e brava più che altro a mangiare, piuttosto che a cucinare. Ci siamo conosciuti in un locale a Milano, il Pow Wow, famosissimo locale etnico di Milano, una sera. Nei momenti particolari, quando bisognava festeggiare un evento, lui si cimentava sempre nel preparare il couscous di carne, quello tipico tunisino. Ed era sempre una gioia. È un piatto che mette allegria, questo misto di tanti ingredienti, spezie e odori. Da quando lui non c'è più, io non ho più mangiato il couscous. Fino a quando, dopo molti anni, ho sentito un'irresistibile voglia di farlo e di poterlo condividere con degli amici. Ricordo benissimo di aver iniziato a pensare e a ricordarmi tutte le volte che lo avevo visto fare a Karim. Ho iniziato a prepararlo la sera prima, recuperando tutti gli ingredienti che ricordavo di aver utilizzato, quindi verza, ceci, sedano, patate, carote, zucca con una montagna di prezzemolo. La carne nel sugo deve stufare per ore. E così, mentre ho iniziato a cucinare, ricordo benissimo di aver acceso la TV e nel fare zapping ho iniziato a vedere quel mitico film di Almodovar, Tutto su mia madre. È uno dei miei film preferiti, mi è entrato nel cuore. Ricordo che ero molto nervosa perché avevo paura di non ricordarmi come fare, ma il film mi ha tranquillizzato e anche molto emozionato. Ricordo di essere scoppiata in un pianto liberatorio che forse avevo dentro da troppo tempo. Ero lì, vicina alla pentola, con il sugo, intenta a girare il sugo e a piangere. Finito il film, era pronto anche il sugo. La mattina successiva mi sono svegliata presto per cucinare il couscous. Per farlo viene usata una pentola particolare, la couscousiera. Ho preparato la tavola e ho atteso i miei ospiti. Gli ingredienti che usavo erano tutti quelli che mi aveva spiegato lui, quindi ci va la zucca, il sedano, una montagna di prezzemolo, i ceci, le carote e poi c'erano quelle erbe particolari che, di sua madre, e non so cosa ci sia in quel misto di spezie, e poi vabbè il sugo e la carne. E non so bene che cosa sia successo, ma io sono stata seppellita dai complimenti. I miei amici sono rimasti entusiasti. Continuavano a dirmi di non avere mai mangiato un piatto così buono. Era il couscous più gustoso che avessero mai mangiato. Sono convinta che tutto quello che è successo quella sera sia passato nel piatto. Ci ho messo tutta la mia passione, il dolore, i ricordi e le emozioni che ho provato. Da allora, ogni volta che decido di cucinare il couscous, penso a Karim e guardo sempre tutto su mia madre, il mio ingrediente segreto per rendere il piatto unico. Mi piace molto cucinare. Credo che cucinare, insieme ad altre attività manuali come fare dei piccoli lavoretti in casa o del giardinaggio, sia una maniera innocua di rilassarsi. Si svuota la mente da pensieri fastidiosi e ci si occupa di qualcosa che non si è abituato a fare, ma che alla fine produce un risultato visibile. E quando questo risultato appare, che sia un risotto o una mensola in bagno o un vaso di lavanda, in genere si è soddisfatti. In più a me piace proprio mangiare quello che cucino. Faccio bene i primi e le verdure, così il pesce, invece sulla carne faccio fatica, mi viene sempre dura, anche il brasato. Il couscous non l'ho mai cucinato, ma di piatti me ne sono inventati diversi. Non guardo quasi mai le ricette. Tanto, se cerchi su internet, non so, tipo le melanzane alla parmigiana, escono almeno 10 versioni diverse. Fette grosse o sottili, passata o vellutata di pomodoro, verdura fritta o grigliata, mozzarella fresca o quella della pizza, olio, basilico. E poi il parmigiano, ci va veramente oppure no? Sulle porzioni poi ho letto le dosi più varie. E su temperatura del forno e durata della cottura si è sfiorato il ridicolo, da 150 a 200 gradi, da mezz'ora a un'ora. E allora, siccome non credo che nessuno abbia torto in questi casi, ma nemmeno che nessuno abbia in fondo più ragione di me, io le ricette un pochettino me le invento. È chiaro che non metto la Nutella sul pollo, ma spesso vado per tentativi. Provo quello che mi sembra giusto fare e a seconda del risultato faccio le mie correzioni. Così al prossimo giro sono giusto. Qualche volta le modifiche tocca farle anche in corsa. Ed è più pericoloso, però dà molta soddisfazione. Qualche estate fa ero in Corsica con tre amici, i miei tre amici preferiti. Una settimana, soli uomini, una casa vicino al mare. Un posto così accogliente che pensi di volerci andare a vivere. E poi quando si sta al mare con gli amici, gli orari sono un po' generici. Solo che a una certa ora tutti si radunano inesorabilmente dalle parti del terrazzo dove c'è il tavolo su cui si mangia. Un po' come dei gatti intorno alla gattara. Solo che di solito la gattara, cioè la cuoca, non c'è. In un gruppo di uomini che vanno al mare insieme è difficile trovarla. E tutti si aspettano che il cibo compaia, come per magia. Non ci sono abbastanza soldi per far arrivare a casa delle pizze o per andare al ristorante, quindi il rischio è andare avanti a pane, pomodoro e cipolla per tutto il tempo, le uniche cose che avevamo comprato. Che a me piace mangiare pane, pomodoro e cipolla, però la colazione pranzo e cena è un po' lunga. E allora quella sera io mi candido a cucinare. Ci sono pochi ingredienti perché nessuno ha fatto una spesa sensata, la pasta però non manca mai. Comincio da lì, farò degli spaghetti. Mi metto un grembiule e vengo preso in giro, anche solo per quello. Prendo i pomodori e li faccio a pezzetti. In una padella scaldo dell'olio e metto i pomodori tritati, però senza che si cuociano troppo. Esco in giardino e trovo una pianta di basilico, al mare c'è quasi sempre. Prendo una manciata di foglie e la metto nella pentola. In cucina adesso ci sono tutti, tutti pronti a dare consigli. Alzo il volume della radio per non ascoltarli e taglio le cipolle sottili. Metto l'acqua a bollire e ci infilo mezzo chilo di pasta. Non ho un orologio, quindi tra un po' l'assaggerò per sapere se è pronta. Metto il resto dei pomodori in una ciotola, insieme alla cipolla e all'olio d'oliva. Mi sembra che manchi qualcosa, quindi apro il frigo. Vedo una busta di rucola dell'Esse Lunga che qualcuno si è portato da Milano e un tocco di grana. Lavo la rucola e la taglio a pezzi piccoli. Poi faccio a scaglie il grana e metto tutto insieme alla cipolla e al pomodoro fresco. Secondo me quei sapori ci stanno bene insieme. Ci condisco la pasta e la porto in tavola, dove qualcuno ha apparecchiato. E poi vai a sapere, sarà la fame, sarà l'idea di stare in vacanza con gli amici, sarà il mare, sarà la soddisfazione di aver cucinato, ma quella cena me la ricordo perfettamente. E ogni tanto, quando voglio far finta di essere su un terrazzo, in Corsica, senza pensieri e con il profumo dell'estate nel naso, cucino quel piatto senza nome. Ma mi riprometto, prima o poi, di imparare a fare il couscous, magari simile a quello di Karim. Senti. Sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Sgranocchiando il tassello di un puzzle, un grosso tassello di puzzle giallo, Rita nella foto che ci ha mandato. Alle sue spalle c'è una parete bianca con credo un decoro o non so se sono pitturate o attaccate con degli stencil, delle farfalle, forse è la casa di qualche creativo o di qualche ragazzino. Lei sorride, ha su degli occhiali e ha su una splendida collana di corallo rossa. Pronto Rita? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, felice di risentirti. Ricordo, tu ci avevi mandato la storia del treno occupato, giusto? Esatto, poi sono venuta agli ultimi due live. Nell'ultimo mi sono fatta fare anche la dedicuzza personalizzata perché avevate inserito il mio il tuo racconto. Sì, insomma, sei una fedelissima, Rita. Mi sa di sì. E quando abbiamo chiesto dei racconti sul cibo, hai detto: io questa storia del couscous la devo raccontare. Hai fatto benissimo, tra l'altro. Scusami, possiamo tornare un attimo a quando hai conosciuto Karim? Quanti anni fa erano? Ci siamo conosciuti nel novembre del 98, perché ci siamo conosciuti il giorno del mio compleanno, perché ero andata a festeggiare in questo locale. Sì. E quindi. E vi siete messi insieme così subito? Subito, la stessa sera. Poi siamo andati era novembre, a dicembre siamo andati insieme a Parigi a fare il Capodanno. Insomma, tutto abbastanza accelerato. E in che anno è mancato lui? Nel 2001. Ah, quindi 3 anni dopo proprio. Sì, Sami è nato a marzo e lui è morto a novembre. E quindi adesso Sami ha, scusami, 13 anni. E Sami sta per Samuele, no? No, ovviamente no, ho deciso di scegliere un nome tunisino. Tunisino, si direbbe Semi, se ti sente un arabo, però Semi qui non è che mi piaceva molto, quindi è Sami. E come si scrive, scusami? S-A-M-I, normale, tra l'altro, non con la Y, un casino a spiegare a tutti che non è Samuele, mi sembra neanche gli avessi dato un nome. Perché, certo, perché ci fai due giri intorno in realtà, credi di essere furbo, avere capito, e invece non hai capito proprio niente. Una volta mi sono dovuta mettere in mezzo, guardi che si chiama Sami. In mezzo dove? tra lui e chi lo chiamava Samuele. Sì. Ah, no, ti chiami Samuele, io, guardi che si chiama Sami, gli faccio vedere la carta d'identità. Lui cosa fa? Studia le medie adesso? Adesso è in seconda media. Sì, seconda. Un po' bivacca, diciamo, fa un po' l'ognorri, però speriamo che si alza un po'. Adesso è in piena crisi ormonale, sai com'è, 13 anni. Per la primavera o per i 13 anni? Ok, per i 13 anni. Senti, invece Rita, tu lavori per un'agenzia di rating, dicevi? Sì. Quindi dai voti sostanzialmente? Sì, non proprio io, perché sono l'ultima volta che ci hanno sentiti ero in un ufficio, adesso sono in un altro, però sì, più che altro sulle società e non sui privati, quindi diciamo se sono dei cattivi o dei buoni pagatori, se ci si può fidare. Da quanto lo fai? Ormai sono 5 anni. E quindi in questi 5 anni hai visto cambiare un pochettino i voti, diciamo un trend generale della percezione delle società, oppure no, non è indicativo? Ha seguito molto il discorso crisi, quindi molte società che prima della crisi avevano un rating alto, un 1, che per noi l'1 è sei bravissimo, okay, sono scivolate nel 3 a volte. Nel 3 che è ai 4 siamo quasi al fallimento, il trattino è già chiusa. Cioè il 5 non esiste? No, c'è il trattino. Ah, il trattino è grazie, arrivederci. Nella nostra scala. Perché fa brutto dargli un 5. Esatto. Invece il couscous, l'ultima volta che l'hai cucinato, quando è stato, Rita? È stato la prima domenica, sì, di marzo. Ah, quindi neanche un mese fa. Eh sì, lo faccio, io faccio almeno 2 volte quello invernale, poi c'è la mia versione estiva. Solo che quindi siccome c'è una preparazione, come hai sentito, la sera prima, poi la mattina. E poi devi trovare il DVD di... No, quello alla fine l'ho comprato perché... Ah ok, quello quindi te lo tieni lì di sottofondo ogni volta. Ce l'ho lì pronto a portata di mano. Sì. Rita, senti, a questo punto noi ti aspettiamo ovviamente al live di quest'anno, che quando arriva più o meno marzo cominciamo già ad immaginare, non sappiamo ancora la data, però sarà più o meno insomma da metà giugno in avanti, quindi noi ti aspettiamo con Sami a questo punto. Provo. Insomma, non c'ha molta voglia, Sami è in crisi ormonale, no, giustamente, esatto, che gli frega venire al live. Il momento in cui tutto quello che gli dico, gli propongo è no, certo, no, guarda ovviamente. Mamma, io con te zero. E allora fallo proporre a lui, non so come, ma trovo un modo per fargli dire, mamma andiamo al live. Fai così, invitalo tu adesso. Ecco, va bene, Sami, non so ovunque tu sia, ma ti assicuro che al live di fine giugno sono un sacco di ragazzine intorno ai 12-13 anni che sono alla fine del mondo. Perfetto. Vediamo se va. Grazie, se va. Grazie mille Rita, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao, a presto. Tutti ciao, grazie, ciao, ciao. 349-238-6666. Prima di lasciare la linea ad Oscar Giannino, quando faccio il pane ascolto i podcast di Voi Siete Qui. E vabbè, questo non vale. Daniela ci ascolta in diretta mentre organizza per la cena. Ammazza Daniela, parti presto a organizzare la cena, alle 4. Sto cucinando i cookies e li porterò a Roma a mia figlia, che si laurea martedì. Saranno molto diversi da tutti quelli che ho preparato prima. Daniela, immagino, Daniela, falla laureare ogni volta, in modo che quello è il tuo ingrediente segreto. Che poi i cookies esattamente cosa sono? Biscotti. Sono dei no, ma mi sa che i cookies sono una roba particolare. Sono dei biscotti, forse al cioccolato. Ma dobbiamo chiudere, sono quelli così. Margheriti mi fa un cenno strano, sono quelli rotondi, sono dei biscotti. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Margherita Ina, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Stefano D'Andrea anche. Grazie e soprattutto a Rita, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Herbert di Trento, la storia di domani è la mia e parla di una lunga corsa tra le montagne svizzere. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.